Era sempre inverno nel suo cuore e le sue lacrime cadevano mute. Lei non aveva alcun timore a guardare negli occhi fisso il suo amore. Lai lai la la, quando era sola. Lai lai la la, lei era una fata. Lai lai la la, cantava la luna. Principessa, fragile sposa. Lai lai la la, quando rientra. Lai la la la, a luce spenta. Lai lai la la, il buio entra. La sua vita, una prigione, una gogna. Ad ogni insulto vomitava rancore. Ad ogni respiro uno schiaffo al cuore e calci e pugni come uragani di pietre. Colpiva al viso con la sua mano feroce. La la la la, quando era sola. La la la la, lei era una fata. La la la la, cantava la luna. Principessa, fragile sposa. La la la la, quando rientra. La la la la, a luce spenta. La la la la, il buio entra. La sua vita, una prigione, una gogna. Non c'era modo di fermare la sua ira. Sputava in faccia a chi l'amava. Dopo le botte lui la cercava e nel silenzio lei soffriva. La la la la, quando era sola. La la la la, lei era una fata. La la la, cantava la luna. Principessa, fragile sposa. La la la la, quando rientra. La la la la, a luce spenta. La la la la, il buio entra. La sua vita, una prigione, una gogna. Ma un giorno, fiera, non si tirò indietro. Lei prese in mano tutto il suo poco. La trovarono morta ai piedi di un divano. Adesso dimmi, a chi sputerai il tuo veleno? La la la la, quando era sola. La la la la, lei era una fata. La la la la, cantava la luna. Principessa, fragile sposa. La la la la, quando rientra. La la la la, a luce spenta. La la la la, il buio entra. La sua vita, una prigione, una gogna.